A tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio, non si vive di solo calcio, anche se oggi si raduna l'Inter, c'è Ibrahimovic che tra l'altro si dichiara felice come un bambino, come il primo giorno, dichiarazioni d'amore per l'Inter. Inter incredibilmente, secondo me, pronta forse a prendere Pavel Nedved. È veramente una mossa che fatico a comprendere, anche se rimane solo nelle ipotesi. Non si vede di solo calcio, anche se Real Madrid potrebbe prendere D'Agostino, lo scrivono in tutte le salse in Spagna, ma lo vedremo nei prossimi giorni, perché non si vede di solo calcio, dicevo, e oggi è venerdì e vogliamo mantenere naturalmente la nostra pagina di basket. Palla spicchi. C'è qui con me Flavio Suardi, ciao Flavio. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Abbiamo finito di sentire poco fa il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi in diretta dall'Aquila nella conferenza stampa di chiusura del G8. Rimaniamo in ambito istituzionale. Saluto e ringrazio il CT della nostra nazionale, Charlie Recalcati. Ciao Charlie. Sì, ciao a tutti, buongiorno. Perdonami l'accostamento, eh. Senti, no, non vorrei essere irriverente, non per altro. Ma ci mancherebbe altro. Senti, oggi tra l'altro giorno importante per te, perché se non ricordo male arriva Bargnani, o è già arrivato? No, non è ancora arrivato. Però in macchina. Lo stiamo aspettando, so che lo attendeva una conferenza stampa a anche Milano, lui. Quindi lo aspettiamo in serata. Anche lui conferenza stampa, si vede anche che è la giornata. È la giornata delle conferenze stampa. Come stanno andando le cose lì da te sui monti, in questo raduno azzurro, in cui a questo punto la griglia con l'arrivo di Bargnani è completa, ci siete tutti, state lavorando, come vanno le cose? Sì, stiamo lavorando con... I problemini soliti di inizio raduno, con qualche giocatore che è un pochino più avanti nella preparazione perché è arrivato in buona condizione, qualcun altro che dopo il campionato ha dovuto fermarsi per piccoli problemini, anche qualcuno che ha sostenuto qualche piccolo intervento chirurgico, quindi insomma abbiamo stati di forma diversi, come abbastanza normale, però insomma c'è grande determinazione, buona volontà ed è la cosa che conta. C'è anche grande fiducia, Charlie, mi pare di capire, perché da quando c'è stata la conferma dell'arrivo sia di Bargnani che di Bellinelli, insomma attorno a questa nazionale è cresciuta la fiducia. Ma io vedo un gruppo molto determinato, un gruppo consapevole del primo giorno in cui ci siamo ritrovati, abbiamo parlato di quelli che sono i nostri obiettivi, consapevole che chiaramente l'estate non sarà semplice, che i nostri avversari sono di tutto rispetto. Forse il fatto che tutti indichino la Francia come squadra favorita per queste qualificazioni magari fa anche un pochino comodo, però c'è grande voglia di fare e grande voglia di sovvertire quello che può essere magari un pronostico che ci vede un pochino partire un passo indietro. Charlie, Bellinelli, ho letto grandi dichiarazioni d'amore per la maglia azzurra, adesso è in testa solo l'Italia, poi la prossima stagione ci penseremo, eccetera eccetera, ma almeno a parole e da quanto ho letto mi è sembrato molto motivato. Sul campo com'è? Ma lui è uno dei giocatori più indietro, però sta lavorando molto per cercare di recuperare, deve perdere qualche chilo perché la sua stagione è finita molto presto, molto in anticipo rispetto addirittura a tutti gli altri giocatori NBA. Però si sta applicando molto, è una bella sorpresa dal punto di vista anche della leadership, e quindi credo che stia interpretando nel modo giusto questo momento, che è un momento che per lui non riguarda e non deve riguardare solo il presente, ma deve riguardare quello che è il suo futuro in nazionale. Insomma, questa è una nazionale che si sta rinnovando, anche se ha alcuni veterani che avranno ancora un ruolo importante, però questa è la nazionale e sarà la nazionale dei Bellinelli, dei Bargnani, dei Gallinari, e quindi lavoriamo sicuramente per oggi, per quest'estate, però insomma credo che i giocatori come Bellinelli e Bargnani devono pensare appunto che la loro permanenza nazionale andrà molto in là nel tempo, che la nazionale ha bisogno di costituirsi uno zoccolo duro, così come è stato per le nazionali precedenti, e nel momento in cui riuscirà a farlo avrà possibilità di successo, per cui insomma credo che vada vista anche la sua determinazione proiettata a quello che verrà poi nei prossimi anni. Certo. Uno dei problemi, Charlie, che non nascondiamocelo, ci sono stati nel passato, è stata proprio la coesione tra il gruppo dei nuovi, così lo possiamo definire, e come li hai chiamati tu, i veterani che avranno ancora un ruolo importante. Cosa sta cambiando in questo gruppo rispetto al passato, proprio da questo punto di vista? Ma sai, intanto siamo assieme da poco, per cui se devo pensare, non so, al 2007, questo problema l'abbiamo avuto nel 2007, non l'abbiamo sicuramente avuto l'estate scorsa, dove, certo, dove alla fine insomma quasi tutti i nuovi non c'erano, per cui abbiamo una sola esperienza a cui fare riferimento, ed è un'esperienza che risale a 2 anni fa, dove i giovani erano effettivamente molto giovani, i veterani erano effettivamente erano tanti. Adesso di diverso c'è che i giovani 2 anni fa hanno 2 anni in più, hanno maturato una maggiore esperienza, e i veterani sono meno, sostanzialmente i veterani abbiamo solamente Soragna e Mordente, quindi è un gruppo composto prevalentemente da giocatori giovani o comunque giocatori nuovi, perché Amoroso non è un giovanissimo, però è un giocatore nuovo per questo gruppo. Senti Charlie, invece dal punto di vista delle chiamate e della disponibilità, ne abbiamo parlato in questo studio diverse volte, sappiamo bene come in passato le tue convocazioni spesso in alcuni casi non abbiano trovato riscontro nei giocatori. Da questo punto di vista come siamo messi? E aggiungo, Storo e Bulleri erano stati chiamati, non sono venuti, hai saputo i motivi, le ragioni di questa mancata risposta alla convocazione? No, noi siamo messi allo stesso modo in cui eravamo messi prima. Sì. L'unica differenza è che prima ero io che mi facevo carico di fare le convocazioni, e se un giocatore non si rendeva disponibile non ritenevo, perché era questa la linea della federazione, la linea del settore, di non dover dare delle spiegazioni perché un giocatore non veniva convocato. Sì. Adesso le cose sono cambiate, c'è una federazione nuova, c'è un presidente nuovo, c'è un responsabile di settore nuovo, e la linea è stata quella invece di convocare i migliori e poi dopo che siano loro eventualmente a motivare il perché non vengono in nazionale. Così è stato con Maggioli in occasione dei giochi del Mediterraneo, così è stato in occasione di questa convocazione per Stonaruk e Bulleri, i quali poi hanno portato le loro ragioni, però sono ragioni che sì, chiaramente sono diventate anche di dominio pubblico. Insomma, Storuk sostanzialmente ha ribadito ciò che aveva detto a me in separata sede lo scorso anno, e ha ribadito anche per iscritto le stesse cose, che lui insomma, quando finisce la stagione deve osservare un periodo di riposo prolungato per poter recuperare energie, per poter rimediare i tanti acciacchi che ha, sì, che quindi non può essere disponibile. Bulleri ha delle problematiche familiari, certo, che chiaramente vanno rispettate. Certo, io aggiungo, tra parentesi ma neanche tanto, che Storuk alla fine, grazie al passaporto italiano che ha in tasca, guadagna un po' più di soldini, grazie a quel passaporto italiano che ha in tasca, ma questo lo dico io. Invece volevo chiederti che cosa ti hanno lasciato i Giochi del Mediterraneo dal punto di vista dell'eredità, cioè che cosa porti dai Giochi del Mediterraneo in questa nazionale? Ma guarda, in questa nazionale porto 3 giocatori, quindi non è che porto un'esperienza, sono 2 esperienze molto diverse che non hanno una continuità una con l'altra, per cui insomma i Giochi del Mediterraneo vanno visti come una manifestazione fine a se stessa. Addirittura era un gruppo di giocatori, oltretutto che essere diverso, anche diverso con le caratteristiche, e quindi anche dal punto di vista tecnico non c'è poco da portare in questa esperienza qua. Quello che lascia il Giochi Mediterraneo è l'amarezza per l'ultima partita, ed è un vero peccato, perché era stato un periodo sicuramente positivo, un gruppo che ha lavorato molto bene con delle assenze, come ormai è diventata purtroppo consuetudine con noi, e poi dopo, soprattutto quando vai ai Giochi nel Mediterraneo, solamente quando arrivi là sai se la tua squadra è competitiva o meno. Abbiamo trovato squadre come Croazia, come Grecia e come Turchia, che avevano allestito delle formazioni un pochino più esperte delle nostre. Un esempio è della Turchia, che sostanzialmente aveva i 2 playmaker che erano i 2 playmaker della nazionale che aveva disputato gli europei del 2007, e noi avevamo tutti i playmaker esordienti per la squadra nazionale. Però dico, al di là appunto dell'amarezza di aver giocato una brutta partita nella finale terzo posto, devo dire che sì, sono stati comunque un mese positivo, perché abbiamo comunque inserito giocatori nuovi nel giro azzurro, abbiamo verificato giocatori che venivano dal campionato di Lega 2 o addirittura dal campionato di Serie A dilettanti, e quindi da questo punto di vista qua che abbiamo lavorato molto, soprattutto in proiezioni future. Senti Charlie, dal punto di vista tecnico ne stiamo parlando invece, su cosa stai lavorando particolarmente in proiezione proprio di questi mesi così importanti per la nazionale maggiore? Cioè, nel senso, che nazionale pensi di farci vedere? Ma guarda, questa qui è una nazionale che chiaramente era stata pensata con un numero 4 come Stonrook, ed è chiaro che non avendolo cambiano un pochino anche dal punto di vista tattico determinate scelte. È una squadra che ha nel ruolo di playmaker molta concorrenza, e molta concorrenza però vuol dire anche concorrenza tra giocatori diversi, e sai benissimo che il playmaker è quello che insomma dà anche una certa impronta poi al tipo di gioco che vai a fare. È chiaro che noi avremo, proprio perché abbiamo playmaker con caratteristiche diverse, la possibilità di giocare poi a seconda dell'avere uno in campo piuttosto che l'altro, non dico una pallacanestro diversa, però magari dei ritmi diversi. E quindi sarà chiaramente una nazionale che con Poeta correrà molto, con Vitali ragionerà e avrà meno corsa, però più ritmo cadenzato, e anche un giocatore che sta un po' a metà tra i due. Però è fuori di dubbio che questa è una nazionale che avrà bisogno di giocare svelto, considerate le caratteristiche di Bargnani, le caratteristiche di Bellinelli, e vogliamo cercare di enfatizzare i loro pregi, nello stesso tempo vogliamo restare comunque competitivi dal punto di vista difensivo, perché giocheremo contro avversarie che hanno grande talento offensivo, e quindi non possiamo pensare di andare a giocare certo, rivaleggiando con loro all'ultimo canestro. Sul canestro in più o in meno. Certo. È una manifestazione che poi si giocherà anche probabilmente, e speriamo, sulle differenze canestri, per cui insomma bisognerà anche avere un occhio di riguardo anche al controllo dei ritmi, fermo restando che dobbiamo mettere in condizione i nostri migliori giocatori di poter esprimere la loro pallacanestro. Di essere quelli veri. Grazie Charlie, buon lavoro. Tu lavorerai, noi anche ci sentiamo nel corso dell'estate. Filo diretto che continua. Grazie a voi, buona giornata. Grazie davvero. Charlie Recalcati, CT della nostra nazionale, con cui abbiamo aperto il programma di oggi. Continueremo a parlare anche dopo il traffico di basket, perché anche molti ascoltatori ci chiedono di un mercato NBA che, a differenza di quello del calcio molto bloccato, è in piena ebollizione. Palla spicchi. Ecco che torniamo. Io non vi ho ancora dato i nostri contatti, 800 24 00 24 per le vostre telefonate. Stiamo parlando di basket e lo faremo fino alla pausa della borsa. Poi avremo il ciclismo, poi avremo il segno di Zorro, comunque quello numero verde, messaggi SMS 349 238 6666. C'è chi domanda, ad esempio Guido da Varese: ma che dati di ascolto avete quando parlate di basket? Che differenze ci sono rispetto alla trasmissione normale? Cambierà qualcosa a settembre? I dati di ascolto sono estremamente lusinghieri, ci fa molto piacere, nel senso che evidentemente un programma sul basket, che credo sia l'unico nel panorama radiofonico nazionale, piace ai nostri ascoltatori, e ripeto, mi fa un grande piacere. Così come mi fa un grande piacere trovare Simone Sandri a New York. Ciao Simone. Buon pomeriggio Carlo. A proposito di messaggi, ne ho un altro che riguarda Rashid Wallace, vediamo se riesco a pescarlo. Questo qui: visto che è venerdì, che ne dite di Rashid a Boston? Titolo sicuro nonostante i suoi colpi di matto, scrive Andrea. Certo, il mercato NBA in questa estate è stato addirittura entusiasmante, direi. Senza dubbio, titolo sicuro andrei un po' cauto, perché se consideriamo che il primo grande colpo del mercato è stato fatto dai campioni in carica e l'acquisto di Ron Artest, quindi forse uno dei migliori difensori, sicuramente il miglior difensore sul perimetro della Lega, almeno per come vedo io il basket, direi che è difficile dire che i Celtics si mettono con l'acquisto di Rashid Wallace al di sopra dei Lakers. Comunque è sicuramente un signor acquisto, è il giocatore probabilmente che serviva di più a Boston, perché il problema di quest'anno è stato che non avevano molti cambi nei lunghi. Bisognerà vedere se accetterà di partire dalla panchina Rashid Wallace, perché probabilmente giocare con Rashid Wallace titolare insieme a Garnett non sarà semplicissimo. Sicuramente Wallace giocherà tantissimo, giocherà 30-35 minuti a partita almeno, parla di un giocatore come Rashid Wallace, sicuramente si parla spesso delle sue dei suoi problemi a volte dal punto di vista caratteriale, però è anche vero che Rashid Wallace, oltre a essere un giocatore molto talentuoso, è un giocatore molto intelligente in campo ed anche è uno che si fa voler bene dai compagni nello spogliatoio, per cui non è un giocatore molto difficile da gestire nello spogliatoio. È vero però che è un giocatore che è sempre un pochino rischioso, perché spesso si lamenta con gli arbitri, ha degli atteggiamenti a volte un po' disponenti, sì. Però è sicuramente un acquisto eccezionale secondo me per Boston. Anche perché Boston, insomma, per il tipo di squadra che ha, deve capitalizzare gli ultimi anni di carriera di Kevin Garnett, dello stesso Paul Pierce, di Ray Allen. È una squadra che ha bisogno di vincere subito, non è una squadra che si proietta particolarmente nel futuro. Boston deve vincere adesso, perché è la squadra nata per vincere adesso. A proposito di Ron Artest, leggevo oggi che, presentato a Los Angeles, avrà il numero 37 come il numero delle settimane in cui Thriller, l'album di Michael Jackson, è rimasto in cima alla classifica. In onore di Michael Jackson, dunque, Ron Artest con il numero 37. Ma infatti io volevo chiederti, Simone, visto che abbiamo parlato di chimica, no, per quanto riguarda Wallace a Boston, e vorrei trasferire questo discorso ai Lakers, cioè l'inserimento di Artest nel gruppo proprio dei giallo-viola. Sì, secondo me non sarà così difficile. Primo perché ricordiamoci che c'è un certo Phil Jackson in panchina, che è senza dubbio l'allenatore più rispettato nell'NBA e sicuramente da questo punto di vista Los Angeles parte avvantaggiato. Ron Artest è un giocatore molto particolare, che però ha come ruolo, sa sicuramente qual è il suo ruolo in una squadra e andrà a prendere, penso che sia abbastanza chiaro quello che succederà a Los Angeles, andrà a prendere il ruolo che era di Trevor Ariza. Ad Artest si chiederà di essere un signor difensore, che è, si chiederà anche qualche punto in più rispetto ad Ariza, e Artest è un giocatore che forse un po' sottovalutato da un punto di vista offensivo, perché è un giocatore in grado di fare anche male in attacco. Secondo me non sarà così difficile inserire Artest in una squadra che naturalmente non cambierà i propri equilibri, perché avrà un'opzione numero uno in attacco che sarà Kobe Bryant, opzione numero due sarà Pau Gasol. Sicuramente credo che Artest lo sappia benissimo questa, certo, cosa. Va lì a fare il suo lavoro e può fare qualcosa in più rispetto ad Ariza, che pure ha giocato una splendida stagione. Noi tutti i giorni parliamo, caro Simone, di colpo del mercato, di colpo dell'estate, di regina del mercato. Ecco, dal punto di vista tuo sul mercato NBA, qual è stato il colpo migliore secondo te, ovviamente funzionale alla squadra che l'ha messo a segno, e quale squadra può essere considerata la regina del mercato almeno fin qui? È un po' difficile considerarle queste cose. Sicuramente se pensiamo che i campioni in carica sono stati in grado di prendere un giocatore straordinario come Ron Artest, è difficile pensare che l'anno prossimo non siano favoriti i Lakers. A me è piaciuto molto per esempio il colpo che ha fatto Dallas, i vari colpi, perché hanno secondo me sono riusciti a ritoccare una squadra che ha le potenzialità anche di dar fastidio, forse non ai Lakers ma di dar fastidio a tutti, almeno ad ovest, perché se consideriamo che sono riusciti a trattenere Jason Kidd, e sembrava difficile, Jason Kidd sembrava molto vicino ai Knicks, poi sono riusciti a portare a Dallas Sean Marion, che è un giocatore un po' particolare, che però può ancora almeno un paio di anni di ottimo basket, e c'entrare anche forse un colpo passato un po' inosservato, che è quello di Gortat, che ha fatto una stagione secondo me eccellente a Orlando ed è un giocatore molto solido, non certamente non flash, non spettacolare. E adesso se pensiamo che Dallas può presentarsi in asse di partenza con un quintetto, con Jason Kidd, con Josh Howard, Sean Marion da 3, con ovviamente Dirk Nowitzki come 4 e come 5 abbiamo un Dampier o un Gortat, è sicuramente un quintetto molto molto solido, per cui io sono molto, mi sembra molto affascinante questo, un po' questo il modo con il quale si è rifatto il trucco Dallas. Simone, in una parola, poi avremo anche qui tempo tutta l'estate per parlarne, secondo te Bellinelli va via da San Francisco, e se sì dove? Non credo che vada via, sì, almeno non credo che vada via nella trade che avrebbe dovuto coinvolgerlo andando a Phoenix con Stoudemire, perché credo che alla fine Stoudemire verrà trattenuto dai Suns, per cui da questo punto di vista non credo che vada via. Fare un trade solo per Bellinelli è abbastanza complicato, per cui credo che lui debba essere inserito in un trade un po' più particolare, un po' più complesso, e il trade di cui si parlava, cioè di Stoudemire per Biedrins e Wright, non credo che succederà. Grazie Simone, a presto! Grazie a voi. Grazie a Simone Sandri, ma chiudiamo questo capitolo sul basket americano e chiudiamo la pagina del basket facendovi sentire un'intervista in esclusiva che ha realizzato Dario Ricci con un grande del basket americano come Chauncey Billups, playmaker di Denver. Chauncey, come valuti l'annata di Denver? Hai qualche rimpianto per come è andata a finire la sfida con Los Angeles nella finale della Western Conference? Eppure avete fatto una grande stagione. Chiaramente abbiamo avuto una buona annata e abbiamo fatto molta strada nei playoff, ma credetemi, sono ancora arrabbiato per la nostra sconfitta contro i Lakers. Ma abbiamo fatto una bella stagione e ci stiamo muovendo nella giusta direzione. A farla da padrone ora è il mercato. Gran colpo di Cleveland che ha preso Shaquille O'Neal da Phoenix. In coppia con LeBron James, potrà portare i Cavs al titolo? È una grande combinazione, sono due grandi giocatori e Shaquille aggiunge peso e pericolosità per i Cavaliers proprio sotto canestro. Ma nessuno può prevedere il futuro. Chissà cosa accadrà il prossimo anno. Aspettiamo e vediamo. Intanto anche i Lakers si sono mossi. A Los Angeles arriva Ron Artest da Houston, mentre ai Rockets va Trevor Ariza. Che ne pensi? Cosa cambia ad Ovest dopo questo scambio? L'NBA cambia sempre ad ogni stagione, anche per le decisioni dei free agent che firmano nuovi contratti. Bel colpo per i Lakers. Artest è un bel giocatore che voleva andare a Los Angeles. Farà bene, e così i Lakers sono ancora di più la squadra da battere fin da oggi. Anche Detroit, la tua ex squadra, ha fatto degli scambi. Sta cambiando profondamente. Via Rashid Wallace ai Celtics, arrivano Ben Gordon e Charlie Villanueva. Che ne pensi? Sono due giocatori giovani e due grandi marcatori. Per Detroit è un ottimo affare. La squadra ha vissuto, sta vivendo un periodo di transizione. Ma credo che Gordon e Villanueva troveranno l'ambiente adatto per crescere ancora. E pensi che i Celtics potranno tornare protagonisti dopo una stagione segnata dagli infortuni e dall'eliminazione ai playoff per mano di Orlando? Sicuramente. Mi aspetto di dover tornare presto a fare i conti con loro. Per Boston sarà fondamentale recuperare al meglio Kevin Garnett. Al resto penseranno la sua grinta e la sua leadership. E qual è la tua opinione sull'impatto dei giocatori europei o di formazione europea nella Lega? Ce ne sono molti veramente buoni. I tempi sono cambiati e il basket continua a progredire. Molti altri ne arriveranno. Hanno una grande conoscenza del gioco, grandi capacità, ottima preparazione atletica. Stanno dando molto al nostro basket e all'intera Lega. Obiettivi per il prossimo anno? Vogliamo avere un'altra stagione vincente, di più. Vogliamo correre per il titolo. Abbiamo molto lavoro da fare davanti a noi, ma siamo pronti a farlo. Tempo di sport. Beh, mi pare che il collega Sergio Nava sia fatto le domande, sia anche abbozzato delle risposte, non so se qualcuno di voi le vuole raccogliere. Io ringrazio Massimo Davarese per l'attesa, magari vuole rispondere lui alle domande. No, sono troppo difficili. Anche per me, lasciamo stare. Niente, io volevo... posso parlare? Ma certo che può. Niente, buongiorno a tutti. Buongiorno. Io volevo parlare della crisi del basket italiano. Sì. E dire che, a mio modo di vedere, mancano i maestri. Sì. Nel senso che per due motivi, troppi giocatori secondo me non sanno i fondamentali. Io ho giocato 20 anni a livelli medio-bassi, ma per dire, so giocare spalla canestro, non faccio passi in partenza, eccetera. Sì. Mentre in Serie A queste cose le sanno in pochi. Forse anche perché gli allenatori dei ragazzi che ci sono in giro guardano un po' troppo agli americani, che nell'NBA sta succedendo lo stesso, secondo me. Poco ma sa tempo cos'è fa... Massimo, sa cos'è? Che secondo me una cosa molto importante è invece il fatto che spesso, e questo rientra nella logica della crisi, del disimpegno dei settori giovanili, eccetera, i settori giovanili sono lasciati in mano, ne ho parlato poco tempo fa anche con Marco Crespi, sono lasciati in mano a gente che fa l'allenatore come passione, come secondo lavoro, eccetera, eccetera. C'è poco professionismo nei settori giovanili italiani, questo è indubbio. Ma volevo dire anche dell'NBA, un secondo solo. Mi è capitato di vedere qualche giorno fa su Sport Italia una vecchia partita di finale tra Los Angeles e Chicago, il primo anello di Michael Jordan. Sì. Se non mi sbaglio, Los Angeles giocava con Magic Johnson, Byron Scott, AC Green, Worthy e Divac come quintetto. Sì, è vero. Secondo me quella Los Angeles, con la Los Angeles campione di NBA adesso, vince 7-0, non 4-0. Lei dice, non lo so, sono... Sì, io sono... adesso c'è tutto fisico, ma... Però, Massimo, però io sono un po' contrario, sono un po' refrattario ai paragoni epocali. È chiaro che adesso è più fisico, però è anche vero che insomma, la fisicità rende anche più difficoltoso il gioco, che le cose, che ogni gesto tecnico viene fatto ad una velocità molto superiore. Dunque io non mi sento di dire prima era meglio, oggi è peggio, prima era più spettacolare, oggi lo è meno. Insomma, sono cose profondamente diverse e insomma, io credo che giocare adesso a pallacanestro, come a calcio, come ad altri sport, sia tremendamente più complicato di quanto non lo fosse 10, 15, 20, 30 anni fa, proprio perché la componente fisica è diventata importantissima, la velocità è enormemente aumentata, dunque diventano difficili anche paralleli di questo tipo. La ringrazio comunque, torni a trovarci presto, Massimo da Varese. Adesso andiamo rapidamente al Tour de France, che per la verità oggi è ad Andorra. Pier Augusto Stagi, buongiorno. Ciao Carlo, buon pomeriggio a tutti. Tanto per cominciare, com'è il tempo? Perché se si mette anche a piovere diventa un disastro. Il tempo al momento è così, tiene. Oggi aspettiamo delle risposte da questa salita, da questa prima salita vera del Tour, da questo primo arrivo sui Pirenei. Sì, intanto c'è nato una fuga di 9 corridori con 3 francesi, Pinot, Riblon, 4 francesi, Kern e Figliuli, spagnoli Gutierrez, Ego e Martinez, il bielorusso Koscinski, il tedesco Frolingen e l'italiano Rinaldo Docentini, che in classifica generale è 32esimo a 3 minuti e 13 e attualmente è maglia gialla virtuale, quindi per quello che può valere, però per il momento l'Italia si fa vedere. Certo, sì. È la prima tappa veramente probante e oggi molti corridori dovranno togliersi la maschera Sì. I primi a togliersela dovranno essere gli uomini della Astana che allora facciamo Pier Augusto, facciamo così, visto che è un discorso che vorrei fare con un po' di calma, c'è il traffico adesso, tu stai lì, ci sentiamo subito dopo la viabilità, anche perché insomma è inutile nascondere che oggi è il giorno in cui si aspetta una prima risposta per quanto riguarda le reali possibilità di Armstrong di vincere questo Tour de France. Tempo di sport. Allora, Pier Augusto Stagi, oggi la maglia gialla cambierà padrone, perché inimmaginabile vedere Cancellara ad Andorra con la maglia gialla ancora addosso. Oggi si aspetta una risposta da Lance Armstrong. Secondo te che risposta sarà? Ma io credo che la risposta sia quella più logica, data da una logica, da un fatto molto chiaro che se certe regole valgono ancora, è normale attendersi un Armstrong meno forte di 4 anni fa, un Armstrong che a 38 anni dimostra di essere un campionissimo. Mi aspetto un Armstrong che può giocarsi le carte, magari ambire a un posto sul podio di Parigi, ma credo poco al gradino più alto. Se no c'è da rivedere tante cose, perché se vabbè essere un campionissimo, ma tornare a questi livelli dopo 4 anni, a 38 anni e massacrare tutti nuovamente, onestamente mi corre un brivido lungo la schiena. Sì. Io credo che se tutto invece andrà come dovrebbe andare, penso che nella sua squadra si rimetterà un po' d'ordine, come quando mettiamo a posto la soffitta. Lì in Kazakhstan c'è un po' di confusione, c'è un grande assembramento di corridori che tutti al momento potrebbero vincere il Tour, appunto da Contador a Lance Armstrong, a Leigh Palmer, ad Andreas Klöden, a Zubeldia. L'unico, il peggiore, Zubeldia, che ha fatto un quinto posto al Tour, tutti gli altri sono stati sul podio, tanto per dirlo. In più Contador e Armstrong insieme hanno vinto 8 Tour de France, quindi oggi ci dovrà essere una scrematura. Dobbiamo anche capire chi ha voglia veramente di far saltare il banco. Certo. E chi avrà anche il coraggio di mettersi in discussione e dire Io al momento ho perso il tour, perso. Mi butto all'arrembaggio e vediamo cosa succede. Piero Augusto, ti devo salutare, ma l'appuntamento è per i giornali radio della sera per raccontarci la fine di questa tappa molto attesa, prima tappa pirenaica, arrivo in salita ad Arcalis. Grazie a Piero Augusto Stagi. Adesso vi faccio un altro annuncio. Venerdì a quest'ora, prendete nota, circa quest'ora, comunque nell'ultima parte di trasmissione, ecco la nuova casa di Andrea Zorzi per l'estate. Il sabato, nel corso dell'estate, fino all'inizio del campionato di Serie A, quindi per l'ultimo weekend di agosto, non ci saremo, e quindi Andrea Zorzi trasloca il sabato a quest'ora con il suo Nel segno di Zorro. Zorro, il segno suo è la zeta. Il segno di Zorro. Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Io sono Andrea Zorzi e dopo i collegamenti dal Giappone, in cui vi ho parlato di baseball, di golf e di croquet, sport molto praticati in quel paese, torno a parlarvi di pallavolo. Oggi lo faccio con un grande e grandissimo ospite che ha appena iniziato una nuova carriera con una grande vittoria. Ma come sempre, iniziamo con ascoltare una sua scheda. Lorenzo Bernardi è nato a Trento l'11 agosto 1968. Sposato con Rossana, ex giocatrice di basket, ha un figlio, Riccardo, che ha scelto il basket. Lorenzo nel 2001 è stato eletto miglior giocatore di pallavolo del XX secolo assieme allo statunitense Karch Kiraly. Ha iniziato la sua lunga carriera negli anni Ottanta alla corte della gloriosa Panini Modena, dove lo allenava Julio Velasco. Agli inizi fu ingaggiato come palleggiatore, ma ha cambiato ruolo diventando un formidabile schiacciatore. Bernardi detiene, assieme a Gianfranco Zanetti, il record di atleta più scudettato nel campionato italiano, con 9 scudetti. Con i club ha vinto anche 5 Coppe Italia, 3 Supercoppe Italiane, 4 Coppe Campioni, 2 Coppa delle Coppe, 4 Coppe CEV, 2 Supercoppe Europee. In azzurro conta 306 presenze e ha vinto 2 europei, 2 mondiali, 3 World League, la Coppa del Mondo del 1995, 5 medaglie d'argento, fra cui quella olimpica, e un bronzo. Ciao Lorenzo, benvenuto ai microfoni di Radio 24. Iniziamo con l'aggiungere ciò che abbiamo volutamente tenuto fuori dal curriculum che abbiamo appena ascoltato, perché l'anno scorso hai chiuso la tua carriera come giocatore con la promozione in A2 a Cles, squadra di Trento, e pochi giorni fa hai vinto come allenatore l'oro ai Mediterranei. Ci racconti come sono state queste due esperienze? Ma ritornando un po' l'anno scorso, così, era una sfida che avevo deciso di fare quando avevo smesso di giocare, diciamo, nel mondo professionistico. E quindi c'era un progetto, il progetto era quello di cercare di andare in A2 per poi proseguire e farla e magari iniziare la mia carriera da allenatore lì. Purtroppo questo non è stato possibile per un insieme di cose e di circostanze che si sono venute a creare. Però sicuramente l'esperienza del campo è stata un'esperienza molto positiva e molto interessante. Per quanto riguarda invece il discorso della medaglia d'oro dei Giochi del Mediterraneo, beh, sicuramente è stata una medaglia in attesa, perché il progetto, questo programma è iniziato anche abbastanza tardi, abbiamo avuto molto poco tempo per allenarci, perché ci siamo allenati 5 settimane solamente prima di iniziarli. Il progetto doveva essere un'evoluzione tecnica di questi giocatori, un ritornare un po' ad insegnare i fondamentali, tralasciando quello che poteva essere un'elaborazione più complicata sia delle partite che della preparazione degli allenamenti e via dicendo. Senti, in finale avete vinto contro la Spagna e, guarda caso, notizia non indifferente, a guidarla c'era Julio Velasco, che è stato il tuo allenatore e il più importante nella tua carriera. Come è stato affrontarlo da allenatore ad allenatore? Ma ti premetto un piccolo aneddoto. Prima di tutto, durante l'estate ci eravamo sentiti e lui mi aveva detto che veniva con la squadra B, e dopo ho ricevuto un'ulteriore chiamata sua e che mi ha detto: guarda che, per correttezza te lo dico, vengo io con la squadra di titolari perché mi interessa in modo particolare partecipare ai Giochi del Mediterraneo con tutti i titolari possibili. A questo, durante la finale, va aggiunto il mio esordio in una finale contro, appunto, la persona, penso, che mi ha cambiato radicalmente la vita professionale nel mondo dello sport. La cosa che mi sono detto all'inizio, prima di iniziare la partita, gli ho detto: me l'ha cambiata da giocatore, chissà che non me la cambia anche da lei. E hai iniziato piuttosto bene. Ascolta, qual è la cosa più strana, più sorprendente nello stare in panchina e non nel campo di gioco? Ma la cosa più strana, forse è anche quella più difficile, è gestire il gruppo e far capire al gruppo qual è la tua filosofia e soprattutto far sì che il gruppo la segua, perché magari parlare di tecnica non è facile, non è semplice, però per noi ex atleti è una cosa abbastanza naturale. Invece gestire un gruppo, fargli capire che adesso non sei più un loro compagno, ma sei un allenatore con determinate filosofie, con determinate idee, ogni tanto devi arrivare anche a qualche scontro, insomma. In campo non ha mai avuto paura di nulla, ma anche questo passaggio molto veloce era comunque rischioso, ma forse la paura ancora una volta non l'hai sentita. No, ma sai, la paura secondo me non bisogna averla, non bisogna avere il timore di aver paura, perché altrimenti si rischia di affrontare una nuova esperienza partendo già con qualche cosa che non va. È chiaro che c'è moltissimo da imparare, che c'è moltissimo da affinare, devi imparare a gestire anche la tensione in panchina, perché chiaramente l'allenatore non deve farsi vedere teso dai giocatori o preoccupato se c'è qualche cosa che non va, quindi anche la gestione di un infortunio alla vigilia o qualche giorno prima di una partita importante, devi dare sicurezza al gruppo, devi far capire che anche gli altri possono subentrare e risolvere tranquillamente la partita, come in effetti da noi è accaduto. Però ti dico, paura penso che sia un sentimento così che nel sport non si deve mai avere, bisogna avere grande rispetto per gli avversari, però la paura no, perché insomma il limite che può succederti è perdere. Senti, adesso ti stai godendo un po' di vacanze in Sardegna, poi tornerai, diventerai allenatore di Padova in A2. Una domanda però veloce: l'oro al Mediterraneo ha un sapore diverso dagli ori che hai vinto come atleta? Appresti molto di più il ruolo dell'allenatore, capisci molte più sfaccettature che prima magari non apprestavi e non capivi. E a livello di emozione particolare no, è esattamente uguale, anzi forse c'è qualche cosa di più, perché appunto devi controllare tutto e tutti, programmare molto di più che quando eri giocatore. Però è chiaro che è sempre una medaglia d'oro. Senti, allora, aggiungiamo questo al tuo curriculum. Complimenti davvero, anche perché l'hai vinto con una squadra sperimentale. In bocca al lupo anche per la tua esperienza a Padova. Un in bocca al lupo sentito. E Lollo, fai come hai sempre fatto, del tuo meglio, che è moltissimo. Grazie mille. Grazie Lorenzo. Grazie a tutti voi per averci ascoltato. La linea torna a Carlo Genta. Noi ci sentiamo settimana prossima. Eh sì, Andrea Zorzi del Segno di Zorro venerdì prossimo a quest'ora su Radio 24. Per lo sport invece ci aggiorniamo a domenica, ve lo ricordo, col palinsesto estivo il sabato vi lasciamo ad altri argomenti. Domenica dalle 18 alle 19 saremo qui in diretta per parlarvi di sport. Grazie a Flavio Suardi per il lavoro in redazione, a Fabio Cantadori in regia. Buona giornata a tutti.